denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E buongiorno, buongiorno da Mauro Meazza, buongiorno a Deborah Rosciani, che non è con noi in questi giorni perché le abbiamo concesso, nostra bontà, qualche giorno di vacanza, pochi, perché lunedì sarà di nuovo qui a questi microfoni. Due di denari di giovedì, come sapete, è il giorno di investire informati, quindi parliamo di mercati, parliamo delle prospettive del 2018, parliamo di tutto quello che è successo in questo 2017, essendo oramai verso la conclusione. Come è andata? Come è andato il Cutrone verso che sì? Suso sull'interno rispetto a Nagatomo, l'interno sinistro, Cutrone e sblocca il derby. Cutrone, Milan 1 e l'Inter subisce la rete dopo 100. Ecco, dicevo, com'è andata? Ieri sera non è andata bene. Peter Bescapé ha lasciato questo omaggio per me a Pietro Lacorte, che questa mattina è in regia. È lui che rende possibile il miracolo che la mia voce vi raggiunga. Dovunque voi siate, spero in vacanza in questi giorni, e dicevo, appunto, non è andata bene. Ora mi riprendo dallo scherzetto, grazie Pietro, presente i miei ringraziamenti anche a Peter Bescapé naturalmente e ad Alessandro Milan, che immagino abbia gestito la regia di tutta questa cosa. Allora, stavamo parlando di cose serissime, cioè di come sono andati i mercati nel 2017, quali sono state le novità per i nostri risparmi nel 2017 e che cosa dobbiamo, possiamo aspettarci nel 2018. Ma questa mattina non parleremo solo di questo, nella seconda parte di Due di Denari ci concentreremo invece su un altro tema, su tutt'altro tema, parleremo di Colf e Badanti. Lo faremo con Teresa Benvenuto, che è il segretario nazionale di Assindat-Colf. Invece, per questa prima parte, abbiamo con noi il collega Moria Longo del Sole 24 Ore. Buongiorno Moria. Buongiorno a tutti. Comunque anche i mercati, un po' di Colf hanno, i badanti hanno bisogno. Hanno bisogno di badanti anche i mercati? Una badante per qualche investitore servirebbe ogni tanto. Magari per qualche fondo un po' spregiudicato. Sì. Ora ne parliamo subito. Vi ricordo che potete, come sempre, telefonarci all'800240024. Se volete intervenire in diretta, ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere anche se volete scriverci un SMS oppure via WhatsApp al 349-238-6666. Come sempre, Due di Denari ha una casella di posta elettronica. Due di Denari è scritto in lettere, due di Denari, @radio24.it. E poi potete seguirci anche su Twitter, Chiara Compagnoni, che mi assiste in luogo di Marco Lombardo, anche lui inviato in ferie per qualche giorno. La dolcissima Chiara Compagnoni si occuperà di monitorare anche i vostri messaggi via Twitter. E adesso, caro Pietro, caro Bescapé, caro Cutrone, è il momento di investire informati. Sigla. Investire informati. Sec, Moria, buongiorno di nuovo. Abbiamo recuperato Britney Spears per te come omaggio. Ottimo. Grazie, ci fa piacere che tu l'apprezzi. Perché? Perché quest'oggi tu presenti sul Sole 24 Ore una cosa molto interessante, uno studio della Banca d'Italia che parla proprio dei titoli tossici. Allora, io immagino che molti ascoltatori, come me, nell'apprendere questa cosa, nel leggere il tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore, diranno: aia, siamo di nuovo tornati nell'area dei titoli tossici. Abbiamo passato degli anni abbastanza terribili cercando di capire quanti ce n'erano in giro di questi titoli tossici, cioè illiquidi di fatto, titoli che sono magari iscritti in bilancio con dei valori, ma poi nella realtà dei fatti questi valori si rivelano fittizi. Dobbiamo essere preoccupati? Vedi che questo possa essere una così un'area di incertezza per il 2018, Moria? Ma è un'area di incertezza non per il 2018, è un'area di incertezza da 10 anni ormai, anche se in realtà stanno diminuendo i titoli illiquidi nei bilanci. Qua si parla, l'articolo che ho scritto oggi, lo studio di Banca d'Italia riguarda i titoli illiquidi, quindi sono quei titoli talmente complessi che non hanno un mercato e quindi non hanno un valore di riferimento, però le banche in bilancio a un valore devono iscriverle, quindi usano modelli matematici, algoritmi del tutto opinabili per iscrivere un titolo a un valore piuttosto che a un altro, e questo determina il valore del bilancio stesso della banca. Ecco, questi titoli ha calcolato Banca d'Italia, titoli o asset, che poi non sono solo titoli, ammontano a 6.800 miliardi nelle banche europee, di cui tre quarti solo nelle banche tedesche e francesi. Ed è questo il punto, perché la Banca d'Italia sottolinea giustamente una cosa che il Sole 24 Ore ha sottolineato da anni, noi abbiamo fatto campagne su questo tema: la vigilanza europea si è concentrata molto sui crediti deteriorati, che è un problema delle banche soprattutto italiane o comunque delle banche del sud Europa, cioè quei prestiti che sono stati erogati dalle banche però a soggetti che o perché non erano affidabili o perché c'era la crisi non hanno potuto rimborsare il loro il mutuo o il prestito. E questo è un problema che riguarda soprattutto le banche italiane, ripeto, del sud Europa, perché noi abbiamo avuto una recessione molto pesante. Però le banche nordiche, soprattutto, ripeto, quelle tedesche e francesi, hanno un altro problema, cioè hanno il bilancio, siccome quelle sono banche molto più banche d'affari, molto meno banche commerciali come le nostre, hanno i bilanci pieni zeppi di titoli talmente complessi, talmente strutturati che sono invalutabili. Ecco, la Banca d'Italia sostiene che questi titoli rappresentano una rischiosità e la vigilanza europea dovrebbe andare a mettere un occhio anche in questi titoli, perché non solo sono tanti, sono 12 volte più grandi dei crediti deteriorati, quindi come ammontare, quindi stiamo parlando di una cifra gigantesca, sono molto concentrati in poche banche e, ripeto, in pochi paesi, ma presentano un livello di opinabilità che è molto molto elevato. Ecco, calcola Banca d'Italia che basterebbe che questi titoli perdessero il 5% di valore, che queste banche avrebbero perderebbero 350 punti base di capitale. Quindi avrebbero un forte problema di capitale a causa di una minima variazione di questi titoli. Il problema è che siccome se la cantano, se la suonano tra di loro, cioè se determinano loro il valore, questi titoli non perdono mai di valore. Però servirebbe un po' di vigilanza, andasse a vedere, ma questi titoli le banche li valutano in maniera corretta oppure li sopravvalutano? Questo è il vero problema. So che la replica spesso è stata, perché come giustamente ricordavi tu, noi sul Sole 24 Ore questa vicenda dei titoli tossici, cioè di parti del bilancio, specialmente le banche nordiche, iscritte un po' a discrezione della banca stessa, perché poi alla fine è un po' quello lì il tema del titolo tossico, noi l'abbiamo sollevato e la reazione è sempre stata più o meno quella di dire ma in realtà c'è copertura poi da altri asset, da altre voci del bilancio, quindi non dovete preoccuparvi. Se in realtà questo studio di Banca d'Italia dice la copertura non è così robusta da poter stare assolutamente tranquilli. Sì, Banca d'Italia non va a dire c'è un problema, va a dire c'è un problema potenziale. Sì. E ripeto, questo problema potenziale deriva dal fatto che la valutazione di questi titoli in bilancio è del tutto arbitraria, opinabile, opaca, e quindi possono essere, e la Banca d'Italia lo scrive, c'è l'incentivo per queste banche a sopravvalutare questi titoli. E quindi c'è la possibilità che i loro bilanci siano sopravvalutati, quindi tutti i coefficienti patrimoniali siano calcolati su un bilancio che non è reale. Questo è il vero problema. E quindi è corretto che la vigilanza vada a guardare anche qua dentro, perché rappresenta questo un rischio sistemico assolutamente. Certo, non possiamo dire in questo caso, poiché si tratta poi dei mercati e quindi anche della tenuta dell'economia di tutti quanti, non è che il fatto di avere noi un problema, quello dei crediti deteriorati e altri, il problema dei titoli tossici, vabbè, allora siamo questo mal comune mezzo gaudio, in realtà sui mercati no, non no, funziona. No, no. Non anzi, è assolutamente è un mezzo gaudio, non è esattamente l'opposto del mezzo gaudio, però non è corretto, non è giusto che soltanto sulle problematiche di alcune banche si concentri la vigilanza, su altre problematiche non si concentri, solo perché sono talmente complessi che neanche la vigilanza ci sa mettere dentro le mani. Certo, allora naturalmente invito tutti gli ascoltatori a leggere sul Sole 24 Ore in dettaglio, ci sono anche dei valori, delle tabelle come sempre, come spesso facciamo sul Sole 24 Ore relativamente a questo problema dei titoli tossici. E oggi, come vi abbiamo ricordato, è anche in edicola con il Sole 24 Ore il nostro fascicolo che è dedicato al risparmio, parliamo di assicurazioni e qui a Due di Denari ne abbiamo parlato ieri, se volete risentire la puntata di ieri la trovate sul nostro sito www.radio24.it. Parliamo invece, Mori, allarghiamo un po' il discorso a una sorta di bilancio di questo 2017. È stato, ma verrebbe da dire, guardando alle ultime settimane, l'anno dei bitcoin o delle criptovalute. E però ancora prima, forse la novità che davvero ha sparigliato è stata quella dei PIR, dei piani di risparmio, che hanno avuto un successo al di là delle previsioni che si augurava il governo. Sono stati proposti da molti gestori, dalle banche, e tutto sommato, insomma, sembra che abbiano avuto anche un positivo impatto anche sul nostro listino. Allora, i PIR, piani individuali di risparmio, sono strumenti inventati al governo e nati nel 2017 per fare in modo che parte del risparmio degli italiani vada a finanziare, a confluire dove ce ne sarebbe bisogno, cioè nelle piccole e medie imprese italiane quotate in borsa o non quotate in borsa. Quindi ha una finalità per mettere insieme il risparmio e le PMI, dando un fortissimo incentivo fiscale, che è il vero punto di forza dei PIR, cioè la totale defiscalizzazione se uno li tiene per 5 anni, cioè sono dei limiti ben precisi su cui quanto si può investire e così via. Quindi hanno avuto un forte successo primo perché hanno questo forte beneficio fiscale, e secondo perché le banche, che in questo periodo hanno grande bisogno di fare raccolta e di fare ricavi da commissioni, perché i tassi sono bassi e quindi altri tipi di ricavi derivanti dai tassi sono bassi, hanno bisogno di fare ricavi da commissioni, e quindi hanno puntato moltissimo su questi strumenti, che sono strumenti ottimi, però bisogna stare attenti ad alcune cose. No, diamo allora un po' di caveat, di avvertenze. La prima sono per le l'uso. Commissioni, perché alcune banche, un pochino, banche o non banche, sim, così, un pochino ci giocano e applicano delle commissioni talmente alte che alla fine il beneficio fiscale non se lo prende più il risparmiatore, ma se lo prende la banca. E questo è il primo problema, attenzione alle commissioni. Secondo problema è il fatto che siccome questi PIR portano denaro nelle piccole e medie imprese, ma purtroppo in Italia di piccole e medie imprese quotate in borsa ce ne sono poche, e quindi si sta andando una forte quantità di denaro in un mercato molto piccolo. Questo sta facendo salire le quotazioni moltissimo. Allora, finché le quotazioni salgono siamo tutti contenti, lo stesso PIR ci guadagna, il risparmiatore ci guadagna, quindi tutto bene. Il problema qual è? È che se non ci sono nuove imprese che proprio grazie ai PIR, al flusso di capitale che arriva in borsa, si quotano in borsa, primo non avviene il meccanismo virtuoso che il governo auspicava, cioè di portare capitale alle PMI e far sì che nuove PMI accedano ai mercati, visto che oggi le banche non sono più così e non elargiscono credito come facevano una volta. E in secondo luogo si rischia di creare una bolla speculativa o comunque un eccesso di valutazioni in certi mercati. Quindi diciamo che per ora questo problema ancora non c'è, è possibile che questo accada. La speranza è che i PIR funzionino davvero e quindi non solo portino risparmio degli italiani in borsa, ma portino soprattutto le piccole e medie imprese in borsa. Ma perché le piccole e medie imprese italiane sono così ostili alla borsa? Tra l'altro ci sono anche recentissimamente stati varati degli incentivi, cioè delle riduzioni dei costi per quotarsi. È una questione storica, culturale. L'imprenditore italiano tendenzialmente è sempre stato molto vicino alle proprie banche, con le quali riesce a giostrarsi meglio. La borsa richiede grandissima trasparenza, richiede hai azionisti nuovi nel tuo capitale, quindi ci vuole, poi devi aggiustare la governance, cioè il governo dell'azienda, e quindi è più difficile mettere tuo figlio, tuo zio, tuo nipote nel consiglio di amministrazione, quindi devi sottostare a una serie di regole che a volte non piacciono tantissimo. Il problema qual è? Che finché le banche, come avveniva prima della crisi, erogavano tantissimo credito alle imprese, potevamo anche chiudere un occhio. Oggi non si può più chiudere un occhio, perché le banche non erogano più credito come una volta, e soprattutto le imprese oggi, ma anche prima, hanno uno squilibrio finanziario, sono molto indebitate a breve termine, questo le rende vulnerabili, e hanno poco capitale. La borsa è un posto dove reperire capitale, non debito, capitale, e quindi per rafforzare le imprese. Quindi è auspicabile che le imprese italiane facciano questo salto culturale, vadano in borsa. Le cose stanno cambiando, perché le imprese, piano piano molte imprese si stanno quotando, ma ancora è ancora un fenomeno troppo ristretto. Troppo ristretto, infatti ne abbiamo parlato qualche settimana fa proprio a Due di Denari, ne abbiamo parlato con Borsa Italiana, l'andamento delle quotazioni all'AIM, che poi è il mercato di riferimento per le piccole e medie imprese, delle nuove quotazioni all'AIM è stato positivo in quest'anno, quindi un risveglio anche da questo aspetto c'è stato. Certo, il PIR, poi il vantaggio, mi viene da dire, ma così quasi a chiosare quello che ci hai spiegato, è stato questo vantaggio fiscale, perché è inutile, a noi italiani piace sempre quando il fisco ci fa qualche sconto, l'idea di non dover corrispondere il 26% sul guadagno ha allettato molti, è stata, però ricordiamo sempre, con la condizione vanno tenuti per 5 anni, se si esce prima da questo piano individuale di risparmio, allora questo vantaggio scompare e le imposte vanno pagate. Tra l'altro, proprio oggi il nostro titolo di apertura sul Sole 24 Ore è dedicato alle rendite finanziarie, perché con la legge di bilancio appena approvata e che debutterà dal prossimo anno, tutte i dividendi che vengano pagati sono soggetti al 26%, quindi anche quelle cosiddetti da partecipazioni qualificate, cioè quando uno possiede una quota consistente di una società. Trovate poi tutto il dettaglio. La sostanza è che chi ha un reddito elevato, diciamo sopra i 75.000 euro, prima pagava con IRPEF se aveva una partecipazione qualificata e quindi pagava di più, adesso il 26% invece gli consente di pagare di meno. La questione è un po' più complessa di come possiamo raccontarvela, di come posso raccontarvela qui, perché poi c'è tutto un regime transitorio che fa sì che non tutti i dividendi saranno subito soggetti a questa novità, però trovate appunto il dettaglio sul Sole 24 Ore di oggi. Moria, ovviamente ci stanno scrivendo gli ascoltatori, vi ricordo i numeri 800240024 per intervenire in diretta, oppure se preferite l'SMS, il WhatsApp 349-238-6666. Qualcuno ci chiede, ma beni rifugio tipo l'oro sono ancora allettanti, va bene? Perché in realtà volevo provocarti sui bitcoin. Bitcoin sono stati la lo novità dell'autunno. Oro digitale. Infatti, allora, meglio l'oro fisico o l'oro digitale, per riprendere anche le indicazioni di qualche ascoltatore? Se lo chiedi a me, io sono per il fisico. Assolutamente. Questo oro digitale... Se vuoi parliamo del bitcoin. Il bitcoin è un fenomeno nuovo per la massa, ma non così nuovo in generale. Il vero motivo per cui sale il bitcoin, continua a crescere anche se con alti e bassi, è legato al fatto che è un bene scarso. Sì. L'algoritmo ne crea un tot, si arriverà a non so in che anno a 21 milioni di bitcoin al massimo, e quindi la scarsità, è per questo che lo chiamano oro digitale, perché è scarso come l'oro, la scarsità è il suo valore. Siccome c'è tanta domanda, tanta gente vuole comprarlo, e c'è poca offerta, ce ne sono pochi di bitcoin, ovviamente il prezzo sale. Il problema qual è? Che rispetto a qualunque altro asset finanziario ha delle caratteristiche completamente diverse. Per esempio, per qualunque asset finanziario si può capire quali sono i fondamentali economici, capire se il prezzo è sopravvalutato o sottovalutato. Per un'azione io faccio un rapporto tra prezzo delle azioni e utili dell'azienda, capisco se l'azienda è sopravvalutata in borsa o sottovalutata. Ma un po' per tutto ci sono dei punti di riferimento, per il bitcoin no. Per cui il fatto che valga $15.000, almeno ieri, oggi non so come... Adesso in questo momento sarebbe difficile, continua a salire e scendere, tra l'altro come le montagne russe, cioè con delle variazioni molto importanti, non del 2 o del 3%, ma di decine di punti percentuali. Esattamente. Il fatto che non abbia un sottostante, un qualcosa, è impossibile dire se $15.000 sono tanti o sono pochi, se sopravvalutato o sottovalutato, se sia una bolla oppure no, può arrivare a 1 miliardo, da per quanto mi riguarda, o a zero con la stessa probabilità. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che il bitcoin viene scambiato su piattaforme non regolamentate, spesso colpite da attacchi hacker che portano via un bel po' di soldi, non sono vigilate. Se io commetto un reato in queste piattaforme, come l'aggiotaggio, la manipolazione del mercato, io sono punito se commetto manipolazione di mercato in borsa o su altri asset class, ma non sono punibile se commetto questo tipo di reati nelle piattaforme di Bitcoin. Io questa cosa l'ho chiesta esplicitamente alla Consob e mi hanno detto no, perché il Bitcoin non è un asset finanziario, non è disciplinato da nulla e quindi non quei reati non neanche si le norme a tutela. Allora, quindi sono mercati facilmente manipolabili e quindi molto spesso quando salgono in quel modo, crollano, risalgono, è presumibile ci possano essere mani forti che sotto ci guadagnano e così. Quindi è una roba altamente speculativa, io consiglio a chiunque voglia farlo di metterci una piccola parte e considerare quei soldi come possibilmente persi o possibilmente in guadagno. Sarà il destino a dire come andrà a finire, però non metteteci certo tutti i vostri soldi. Una piccolissima quota si può provare a metterla, però non esageriamo perché, ripeto, potrebbe anche domani rivelarsi un bluff. Beh, allora guarda, abbiamo ancora qualche minuto prima di fermarci e di salutarti, perché poi, come dicevo, parleremo di tutt'altro argomento, cioè di colf e badanti, quindi affideremo anche i mercati finanziari a qualche badante. Ecco, chi compra Bitcoin una badante forse finanziaria o comunque l'assistenza anche di uno psicologo nel caso poi gli scossoni siano troppo forti, perché abbiamo segnalato in questi giorni anche cadute del 30-40%, perciò oltre 40%, bisogna avere i nervi molto saldi per non essere spaventati da questi andamenti. Ma ti volevo chiedere, complessivamente il momento economico e il momento dei mercati sembrano buoni. Abbiamo una modesta risalita dell'inflazione, le banche centrali, quella europea e quella americana, stanno gradatamente uscendo dal quantitative easing, insomma dall'immissione di liquidità, stanno concludendo questa fase, i tassi si stanno rialzando, gli indicatori sono buoni. Certo, in Italia forse questa ripresa generale è un po' più debole, un po' più localizzata in una parte più e meno altrove, per prendere le parole del poeta. Sembrerebbe, diciamo, tutto abbastanza ben intonato, come dicono talvolta coloro che si occupano di borsa. Possiamo essere quindi fiduciosi nel guardare al futuro. Tra l'altro Plus sabato so che sarà in edicola con il 2018 visto dai gestori, quindi avremo una serie di prospettive. Non ti chiedo delle previsioni, però come vedi il momento, come interpreti il momento? Il momento è così, sul mercato c'è un ottimismo che credo non abbia molti precedenti nella storia. Io una volta ho fatto un grafico, cioè non l'ho fatto io, ho trovato un grafico che va a vedere quanti sono rialzisti sulla borsa di Wall Street, rialzisti o diciamo più neutri. Ebbene, era il record dal 1986, cioè non c'erano mai stati così tanti positivi, investitori positivi sulla borsa di Wall Street come negli ultimi 30 anni, dal 1986. Perché i mercati sono positivi, gli investitori sono positivi? Perché la crescita economica è per la prima volta sincronizzata nel mondo, tutte le aree geografiche crescono, è successo nel 2017, si prevede che accada nel 2018, non accadeva da molti anni, ovviamente chi più chi meno, l'Italia, lo dicevi tu, purtroppo è uno dei fanalini di coda, ma anche noi un pochino. È nella parte destra della classifica, sì. Potremmo dire, anche se oggi di calcio non avevo voglia di parlare. Destro basso, però sì. Vabbè. L'economia quindi cresce, l'inflazione sale ma non troppo, anzi resta molto più bassa di quello che giustificherebbe la crescita economica, e questo è uno dei grandi enigmi del momento, e quindi le banche centrali possono ritirare le loro politiche monetarie espansive che per anni hanno pompato le economie e i mercati finanziari, ma possono farlo in maniera talmente graduale che nessuno si preoccupa. Quindi siamo quasi in uno scenario perfetto. I mercati sono intonati, sono predisposti per lo scenario perfetto, no? Per una sorta di paese delle meraviglie. Qual è il problema del paese delle meraviglie? Il problema è che gli investitori sono talmente ottimisti che c'è in questo momento un eccesso di cosiddetto risk taking, cioè prendono troppo rischio e si proteggono poco dai rischi stessi. Il cosiddetto hedging, cioè la copertura dei rischi, è molto bassa, nessuno si copre dai rischi, è come se tutti salissero sulle navi, essendo talmente sicuri di quelle navi che non si accorgono che nessuno si preoccupa del fatto che non ci sono scialuppe di salvataggio. Allora, siamo tutti sicuri che andrà tutto bene, però i rischi non è vero che non esistono, e il fatto che gli investitori sono così propensi a prendere rischi e poco propensi a proteggersi dai rischi stessi dimostra, secondo me, che se qualcosa dovesse andare storto nel 2018 o nel 2019, nessuno è preparato per farlo, e quindi questo potrebbe amplificare i cali. Quindi ottimismo va bene, però secondo me c'è un eccesso di ottimismo, servirebbe un po' più di prudenza, soprattutto su mercati che corrono da così tanti anni, e quindi a un certo punto una pausa di riflessione potrebbe dovranno prenderla. Allora, grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per questa analisi di ultima puntata del 2017 di Investire Informati. Ora ti lascio andare in redazione a studiare come questi grafici, queste cose che poi ci segnali tutti i giorni sul Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo perché adesso dobbiamo ascoltare da Livia Zancaner come stanno andando proprio i mercati in questa giornata. Grazie Moria e buon anno naturalmente. Buon anno a tutti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Ah, Ezra, arrivi proprio in tempo. Pensavi che mi fossi dimenticato della tua gratifica natalizia? Eccola qui. $5? Magari ci vado al cinema, però da solo. Metà di quelli sono da parte mia. Grazie, signor Mortimer. Facco. E allora, Chiara Compagnoni, che mi assiste in queste giornate per Due di Denari, per il programma Due di Denari, ha pescato questo cameo da Una poltrona per due, perché si parla di gratifica natalizia al domestico, e allora noi vogliamo parlare di Colf e Badanti, con Teresa Benvenuto, che è il segretario nazionale di Assindatcolf, l'associazione nazionale dei datori di lavoro domestici. Innanzitutto benvenuta a Due di Denari. Bentornata. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Grazie. Allora, volevo partire subito da questa cosa della tredicesima, perché adesso abbiamo parlato di gratifica natalizia con un termine, con vocaboli un po' desueti magari, ma dicembre è anche il mese della tredicesima per solitamente le colf. Allora, se ci riepiloga le regole, magari così facciamo anche da memoria per qualche ascoltatore che potrebbe essersi scordato o non sapere bene come calcolare questo importo. Diciamo, la tredicesima è una tredicesima mensilità che viene riconosciuta, come gli altri lavoratori dipendenti, anche alle domestiche, ai lavoratori indipendenti delle famiglie, diciamo, quindi anche badanti, babysitter e altre figure contenute nel contratto collettivo. Deve essere riconosciuta nel mese di dicembre, quindi tendenzialmente prima della fine del mese di dicembre, e per permettere appunto ai nostri dipendenti di godere di questa somma prima delle festività, e va data in misura di una mensilità se la lavoratrice ha le nostre dipendenze da almeno un anno intero. Se invece l'abbiamo assunta nel corso dell'anno, gli spetteranno tanti ratei quanti mesi sono al servizio della famiglia nell'anno 2017. Quindi se è iniziato a giugno dovremo dare la metà della tredicesima dell'importo mensile. Sì, prego. Se oltre ad essere una lavoratrice ad ore, anche una lavoratrice, abbiamo invece assunto una lavoratrice convivente che vive con noi, quindi oltre ad avere diritto alla retribuzione monetaria che diamo alla nostra dipendente ogni mese, avrà diritto anche all'indennità di vitto e alloggio. Nel calcolare la tredicesima si deve tener conto anche di questo valore. Benissimo. Allora, io volevo così un po' riepilogare anche gli aspetti della gestione del lavoro domestico, perché tra l'altro ieri proprio l'INPS ha diffuso un messaggio ricordando a tutti che entro il 10 di gennaio vanno versati i contributi per quanto riguarda il quarto trimestre, quindi invitando anche i vari datori di lavoro domestico a utilizzare i diversi canali. Si può pagare sia direttamente dal sito dell'INPS sia utilizzando i bollettini ottenibili pure dal sito dell'INPS. Però questo, benvenuto, è stato un po' l'anno dei voucher e dei nuovi voucher. Allora, a volte si fa un po' di confusione tra quello che è il lavoro domestico vero e proprio e quello che è il pagamento con voucher, che magari uno a cui si ricorre per una babysitter, per un piccolo aiuto. Vogliamo riepilogare le due cose, perché spesso si tende a confonderle. Sì. il voucher e il vecchio voucher, adesso denominato libretto famiglia, rappresenta un metodo di pagamento di prestazioni occasionali, veramente occasionali, di cui ha, può aver bisogno la famiglia. Quindi, come ben diceva lei, della babysitter quando voglio andare al cinema e lascio, per non lasciare i ragazzi da soli a casa, i bambini da soli a casa, chiamo una persona che ho individuato, e quindi una tantum molto spot, molto occasionale, chiamo questa persona e la pago con i voucher, con i vecchi voucher, adesso libretto famiglia. Che non deve essere, questo come esempio esemplificativo, è ben diverso se io come donna per lavorare ho bisogno di una babysitter che mi controlli e mi gestisca i bambini nella mia assenza tutti i giorni o per 2 giorni a settimana, 3 giorni a settimana, cioè quando io non posso come mamma riuscire a fare questo tipo di operazione. E questo tipo di rapporto deve intendersi come un rapporto di lavoro subordinato e continuativo, e quindi non può essere inquadrato o ricondotto al voucher. Quindi bisogna ridefinire e dire che il lavoro domestico non viene pagato esclusivamente, si può pensare che debba essere pagato con il voucher, ma è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti e va contrattualizzato e gestito sempre tramite l'INPS con dei versamenti anche contributivi trimestrali. Ed un pagamento retributivo che tiene conto di una serie di norme che sono dettate dal contratto collettivo. Se invece abbiamo bisogno di operazioni spot, come dicevamo prima, allora utilizzeremo il voucher. Questo libretto, voucher, questo libretto famiglia o come vogliamo chiamarlo. Io continuo a dire voucher, perdoni, ma per capirci. Tutti lo identifichiamo come voucher, è solo che la terminologia è cambiata e piano piano ci abitueremo anche noi a questa nuova terminologia. Allora, la interrompevo perché volevo invitare tutti gli ascoltatori che avessero domande su questo a scriverci o telefonarci 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma tra poco, essendo giovedì, avremo anche il domandone, ricchi premi per chi ci risponderà. Potete sempre utilizzare lo stesso numero. Se invece volete mandarci, come state facendo, SMS, WhatsApp, dovete utilizzare il 349-238-6666. Allora, spesso spaventa però il potenziale datore di lavoro l'idea che ci sia molta burocrazia nel avere un collaboratore domestico, una collaboratrice domestica fissa. Com'è la gestione? Possiamo definirla complicata o è una cosa gestibile anche da persone, non avvezze a questo tipo di incombenze? Guardi, da un punto di vista di comunicazione con gli enti, quindi rendere pubblico e in chiaro un rapporto di lavoro, sono stati fatti molti passi avanti negli anni e oggi, se si vuole assumere un collaboratore domestico, basta fare una comunicazione all'INPS, indicargli che tipo di rapporto si sta mettendo in piedi, quindi quante ore di lavoro, in che regime, se regime di convivenza o ore, si danno i riferimenti del lavoratore, del datore di lavoro, e si fa la denuncia. Quindi entro 24 ore dalla data d'inizio si fa questa comunicazione accedendo al portale dell'INPS con un PIN personale del datore di lavoro se ne è in possesso, o rivolgendosi ad un operatore, ad un intermediario autorizzato come può essere un'associazione datoriale come siamo noi, e si fa velocemente questa comunicazione, per cui è veramente burocraticamente semplice. Certo, che forse è più semplice che i nuovi voucher, tanto per dirla molto schietta. Sì, è proprio così, perché i nuovi voucher hanno bisogno di una preregistrazione da parte sia dell'utilizzatore che da parte del prestatore dell'opera, all'interno del sito dell'INPS, e poi il datore di lavoro, anche per questo, per fare questo è necessario che ambedue abbiano un proprio PIN personale o si rivolgano ad un patronato. Dopodiché l'utilizzatore, quello che in altri termini sarebbe la famiglia, come direbbe il fisco, l'ex datore di lavoro, deve entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione, quindi entro il 3 gennaio se facciamo riferimento a dicembre, deve comunicare quante ore questa persona ha pagato e quindi la retribuzione che deve, il compenso che deve il essere compenso che viene. Deve essere, ecco, garantito, deve essere dato al prestatore di opera. Questa persona riceverà una notifica contestualmente a questa comunicazione, ma potrà accedere al compenso solo entro il 15, diciamo, sempre facendo l'esempio, del mese successivo. Di gennaio. Allora, queste erano le regole dei nuovi voucher, che quindi, come avete ascoltato, non sono semplicissime. Alla fine, in situazioni appunto che sono oltre il lavoro occasionale, assolutamente occasionale, invece c'è quello per la gestione del lavoro domestico tramite INPS, tramite denuncia all'INPS, che sicuramente è più facile da spiegare, insomma, è più immediata da spiegare. Ma adesso ci dobbiamo fermare un istante. Vi ricordo 800240024 per rispondere al domandone che vado subito a porvi. Pietro La Corte, sigla. Allora, con il domandone facciamo un passo indietro, torniamo alla prima parte della nostra trasmissione, torniamo a parlare di mercati, di risparmio, di finanza, perché vi chiedo se sapete dirci qual è la definizione di PIR, che significa questa sigla, e quale il suo vantaggio fiscale. Questo è il domandone, l'ultimo domandone di Due di Denari per investire in formati per il 2017. Poi con il 2018 naturalmente cambierà tutto. No, avremo sempre investire in formati tutti i giovedì qui a Due di Denari. Avremo sempre la possibilità per voi di intervenire in diretta e di fornirci la risposta. E adesso, come è d'abitudine, come è da tradizione, quando si arriva al 45esimo minuto, poi ritorniamo a parlare di golf, di badanti, di lavoro domestico con Teresa Benvenuto di Assin.Golf, ma tutto ciò premesso, traffico! Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... di denari. Polvere, gran confusione, un grigio salone, in quale direzione io caccerò la polvere dai miei pensieri. Abbiamo chiesto aiuto a Enrico Ruggeri, un'altra voce di Radio 24, oltre che naturalmente un cantante e autore di grandissima capacità e importanza. Perché? Perché parliamo di lavoro domestico, e allora la sua canzone Polvere ci sembrava molto adatta. Ne stiamo parlando con Teresa Benvenuto, che è il segretario nazionale della Assin.Golf, e ci ha chiamato Anna Maria da Roma, che ha un quesito proprio per Assin.Golf. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno. Ci dica. Allora, senta, io ho una collaboratrice, non so come chiamarla, una signora che viene sì. da me una volta ogni 15 giorni per 2 ore. Sì. Io finora non ho pensato a regolarizzarla in nessuna maniera. Ecco, volevo sapere però come devo fare eventualmente. Allora, noi lo chiediamo subito a Teresa Benvenuto. Certo, mi sembra un impegno molto molto circoscritto quello che ci segnala Anna Maria. Cosa dice, dottoressa Benvenuto? Sì, è una situazione un po' al limite. Non ha una ripetizione settimanale, ma ce l'ha quindicinale. Però è continuativa. Cioè, se noi inquadriamo rispetto ad un anno, vedremo che questa signora andrà ripetutamente ogni 15 giorni dalla... Sì. Dalla Anna Maria, dalla nostra sì, ascoltatrice. Per cui io mi sento di dire che è un rapporto continuativo e nell'interesse della datrice di lavoro è continuativo, perché facendo una semplice denuncia, come dicevamo prima, la signora verserà correttamente i contributi per la lavoratrice e in seguito non potrà essere, diciamo, non potrà avere una richiesta dalla lavoratrice essere inquadrata in regime di dipendenza rispetto ad un voucher utilizzato impropriamente. Certo. Quindi perché... a livello di costo, in comparazione di costo tra il costo di un voucher e il costo di una denuncia di inizio rapporto di lavoro o il regime di subordinazione, c'è un'equivalenza. Quindi a questo punto consiglierei di fare un'assunzione a tempo indeterminato. Come colf, con le modalità sì. Che ci spiegava, insomma conviene essere diciamo corretti nella correttezza totale, anche perché non ne abbiamo parlato prima, ma glielo chiedo ora. C'è un vantaggio da anni in realtà, cioè da molti anni, un vantaggio anche in dichiarazione dei redditi, perché i contributi che il datore di lavoro versa per la colf sono poi deducibili, che è un po' di più di detraibili, adesso non perdiamoci in dettagli fiscali, la sostanza qual è, dottoressa Benvenuto? Che il costo del contributo può essere portato in deduzione fino a 1.549 euro all'anno, nel caso della signora praticamente l'intero. Quindi sarebbe in regola, avrebbe un inquadrato correttamente il rapporto con la lavoratrice, avrebbe un vantaggio fiscale portando in deduzione questo importo, nell'importo del costo dei contributi. E tra l'altro poi c'è una quota che va anche a vantaggio del lavoratore stesso, della lavoratrice, cioè della colf, perché anche la quota di spettanza dei contributi per la colf viene poi utilizzata dalla colf nella sua dichiarazione dei redditi, no? nella fare la sua dichiarazione dei redditi. Anche questo aspetto mi sembra un aspetto da sottolineare. Non riesco a seguirla in questo passaggio. Probabilmente la lavoratrice è tenuta a fare la sua dichiarazione dei redditi abitualmente. Ecco, quando noi parliamo di deduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, dobbiamo dire che portiamo in deduzione solo la quota a carico del datore di lavoro. Esattamente, questo no. Allora grazie, perché effettivamente mi ero smarrito, ma la sostanza è questa, cioè sì. Parte dei contributi sono dovuti dal datore e sono la parte maggiore. Una quota di contributi è dovuta anche dal lavoratore, dalla colf, dalla lavoratrice. Questa quota di contributi, queste quote di contributi, sia quella del datore di lavoro che quella della colf, sono ambedue deducibili dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Ecco, mi stavo perdendo, ma grazie a Teresa Benvenuto ci siamo anche salvati. Allora, abbiamo probabilmente più di un ascoltatore che vuole rispondere al nostro ultimo domandone del 2017. Io per galanteria darei la parola ad Anna che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Anna, Buongiorno. Buongiorno, allora la mia risposta è questa: piano investimenti, risparmio e beneficio fiscale se li teniamo 5 anni. È una risposta solo parzialmente corretta, non so adesso Pietro, vedi tu che effetto mandare, se gli applausi o invece quello... Sentiamo Ruggero da Padova, se ci risponde più precisamente. Sì. Buongiorno Ruggero, dica. Sì, buongiorno, allora piano investimento piano individuale di risparmio. Il vantaggio fiscale è dovuto al fatto che tenendoli almeno 5 anni, qualora mai, cosa che si augura e ci si aspetta, alla fine del quinto anno ci dovesse essere un utile, su quell'utile non si paga la plusvalenza. Ecco, quindi questa è la risposta più corretta. Ma poiché grazie a Ruggero, però io mi sento oggi buonissimo e poi in fondo siamo sotto Natale, allora Chiara Compagnoni, ti prego, prendiamo i riferimenti sia di Ruggero sia anche di Anna. Grazie. E premiamo, grazie a voi, grazie dell'ascolto e del vostro interesse, e noi torniamo ancora per pochissimi minuti invece a parlare di colf e badanti con Teresa Benvenuto. Una cosa che magari qualcuno si sta chiedendo e su cui possiamo rassicurarli: nella legge di bilancio, che così tante cose contiene, sappiamo che ha 1247 commi, non ci sono però novità in vista per quanto riguarda il trattamento 2018 del lavoro domestico. Ahimè, ha ragione. Nonostante avessimo presentato varie richieste per sensibilizzare nella stesura del testo un'attenzione per le famiglie e datori di lavoro domestico, alla fine non abbiamo ottenuto nessun riscontro concreto. Quindi anche il 2018 rimarranno solo deduzione e detrazioni in essere, e non ci sarà, quello che avevamo invece chiesto, una deduzione totale del costo che le famiglie sostengono il più delle volte per assistere gli anziani, i bambini e anche per il proprio personale domestico. Perché voi sostenevate questa richiesta, che effettivamente sarebbe stata un po' più onerosa per lo Stato, ma forse no, perché era un po' questa la vostra tesi? Allora, noi sosteniamo che non è così onerosa e non lo facciamo da soli, ma grazie all'aiuto del Censis, che ha fatto per noi uno studio, nel senso che le famiglie sicuramente avrebbero un vantaggio, siccome noi sosteniamo che appunto il lavoro domestico non è solo un lavoro per gli elite, per le famiglie che hanno, diciamo, una condizione economica di un certo livello, ma è per sostenere appunto le famiglie che hanno anziani, portatori di handicap, necessità quindi di avere una badante, una babysitter se ho un bambino piccolo e devo andare al lavoro, quindi è una necessità che la famiglia deve sostenere, risolvere a prescindere dal reddito. E avendo una deduzione totale, le famiglie potrebbero risparmiare dai 2 ai 5 mila euro l'anno. In più avremmo un'emersione dal lavoro nero di una certa quantità di lavoratori, si stima intorno a 340 mila lavoratori del settore, e anche molti lavoratori come effetto indiretto, perché appunto si metterebbe in circolo una serie di un'economia tale da incentivare anche tutto l'indotto, e quindi un perfetto di appunto eventi diretti e indiretti. Lo Stato potrebbe avere un effetto positivo ad un costo stimato, come ripeto, dal Censis, quindi da un istituto autorevole, sui 70 milioni di euro di costo. Quindi per noi sarebbe un vantaggio, perché sarebbero molti vantaggi sostenere le famiglie che fanno un welfare fai da te, sì, che attualmente gestiscono in toto questi costi. Emersione di lavoro irregolare del settore domestico, abbiamo quasi il 50% di lavoro in nero, sì. Considerare appunto tutto l'indotto a cascata nelle attività commerciali eccetera eccetera, perché la famiglia avrebbero un risparmio da 2 ai 5 mila euro l'anno con questa deduzione, che noi pensiamo che non accantonino, non mettano a risparmio, sì, ma distribuiscano di nuovo nell'economia. E pertanto e anche, diciamo, i sistemi di assistenza che l'assistenza pubblica non riesce più a dare, con case di cura, tutta una serie di servizi, diciamo, di lungo degenza che sono, diciamo, un po' vacillanti, potrebbero continuare ad essere assorbite dalle famiglie con l'assistenza in casa, rivolgendosi ad una badante, ad un assistente, certo, familiare. Allora, quindi abbiamo... è un progetto un po' ambizioso, un po' coraggioso, complesso, forse. Coraggioso. Ma non abbiamo trovato forze politiche così coraggiose da seguirci in questa legge finanziaria. Speriamo che nel nuovo anno, con tutto questo scenario politico che si sta definendo e che inizierà da gennaio in poi a mettersi in piedi, avranno chi più chi meno attenzione al settore. Ecco. Allora, abbiamo tempo per un'ultima telefonata, che è quella di Antonia da Perugia. Buongiorno Antonia. Buongiorno a voi. Ci dica. E buone feste. Grazie anche a lei. Una domanda velocissima. La mamma del mio compagno ha una tata. Sì. Dopo un periodo di rodaggio è stata messa in regola, diciamo, da poche settimane. Sì. La stessa persona, per un rapporto di lunga amicizia quasi, diciamo, e fiducia, fa le pulizie a casa del figlio, cioè del mio compagno, sì, una volta a settimana. Sì. Come si può sistemare la questione per quanto riguarda le ore fatte a casa del figlio? Le ore extra, diciamo così, le ore che non sono quelle del casa, datore di lavoro. Sì, mm-mm. Sì. Beh, allora, ce lo facciamo dire da Teresa, benvenuto. Grazie. Sì. Il rapporto di lavoro si svolge in luoghi molto vicini, e il datore di lavoro può, possiamo dire, diciamo, anche se con una forzatura, può essere la madre, se anche poi c'è se la mamma è già, diciamo, titolare del primo rapporto di lavoro, quello della sua badante, può decidere di mandare a svolgere delle ore di attività lavorativa presso la casa del figlio, che magari sta nello stesso stabile, quindi non esce dal luogo, sì, originario del lavoro, dove svolge il primo lavoro, e quindi conteggiare ad ore queste prestazioni. Questo, come dicevo, è una forzatura, perché e anche la mamma dovrebbe essere colei che paga la retribuzione, quindi un, sì, unico datore di lavoro che dà gli ordini e che dà e che paga, provvede alla remunerazione. Se invece i rapporti sono due completamente distinti, non c'è coincidenza di luogo di lavoro, non c'è coincidenza di datore di lavoro, non c'è coincidenza di persona che dà le direttive sull'attività lavorativa, devono essere gestiti separatamente. Da una parte la signora è una convivente, una badante convivente che vive in casa della madre ed è pagata con una retribuzione mensile, dall'altra invece è una lavoratrice ad ore che va a svolgere alcune ore come colf e viene pagata con una retribuzione oraria, che quindi vive di vita propria e non ha, diciamo, cumulabilità con un altro datore. Grazie. E allora siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Ringraziamo Teresa Benvenuto, ringrazio Pietro Lacorte di là dal vetro, anche se mi ha fatto lo scherzone, e Chiara Compagnoni. Due di Denari torna domani per l'ultima puntata del 2017.